Cine va plăsona rezi? Dai s-o părghi, dai s-o părghi, dai s-o părghi. Dai s-o părghi, dai s-o părghi, dai s-o părghi. Lunii dai la loro forța, e la strada il loro credo. Contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai s-o părghi, dai s-o părghi, dai s-o părghi. Dai s-o părghi, dai s-o părghi, dai s-o părghi. Dai s-o părghi, dai s-o părghi, dai s-o părghi. Dai s-o părghi, dai s-o părghi. Cine fac sono arrivati, ne sono forti fiorentini. Cine fac non sono arresi, dai sono forti, dai sono forti, dai sono forti. Un salutone a tutti e tutti da Radio Wombat, wombat.noblogs.org in streaming. E nuova puntata di Passaggi a Nord-Ovest. I fatti accadono nel quadrante nord-ovest di Firenze, raccontati da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. E chi ci vive e soprattutto ci lavora sono gli operai della GKN, venuti oggi a trovarci, reduci o comunque che stanno portando avanti iniziative all'interno della fabbrica rispetto all'accordo sindacale, il contratto che riguarda direttamente la loro azienda, la loro situazione. Ma prima di parlare di tutto questo, un identikit della fabbrica. Chi ci lavora, chi sono i lavoratori, dove è situata, cosa produce e chi sono anche i padroni. Buongiorno a tutti, io sono Massimo, sono delegato per la GKN Driveline Firenze. E, allora, si diceva, scusami Carlo, la GKN Driveline Firenze è praticamente la Fiat di Firenze, che poi si è trasformata in GKN intorno alla metà degli anni 90. E, in sostanza praticamente è GKN da 20 anni, da più di 20 anni. La fabbrica si trova davanti ai Gigli, per chi non lo sapesse, quel fabbricone grigio che si vede su via Fratelli Cervi, e in questa fabbrica ci lavorano poco meno di 500 persone direttamente dipendenti GKN più un centinaio di esterni. Poi si diceva Carletto, no, chi c'è chi no, ti chiedevo appunto cosa si produce in questa fabbrica, ci sono i padroni, come se è un'articolazione di una holding, di una fabbrica più grande, ecco, di un... Esatto, la GKN nel mondo è una multinazionale che lavora nel settore dell'automotive, ovvero settore auto. E, insomma, noi lavoriamo principalmente per Fiat, ma lavoriamo anche per le cosiddette sorelle consociate della multinazionale. Spediamo pezzi finiti al cliente Fiat e altri pezzi semilavorati agli altri stabilimenti GKN in Europa e nel mondo. Appunto, si diceva, quali pezzi produciamo? Abbiamo il semiasse finito, il semiasse per auto finito, completo, oppure alcuni suoi componenti, tipo l'albero del semiasse, il giunto di trasmissione, insomma questo è il prodotto che esce, la merce che esce dalla nostra fabbrica, il ferro che esce. Ma prima delle iniziative per questo contratto aziendale, c'è stato il no al contratto collettivo nazionale di lavoro proposto dall'accordo tra sindacati e vertici aziendali. Un no che all'interno della GKN è stato respinto a stragrande maggioranza, quasi il 90% dei voti. Ecco, cos'è che non andava? Vedo che entri subito nel vivo della questione. Ecco, noi come sindacato interno in GKN siamo riusciti a fare molte cose interessanti dal punto di vista sindacale. E una di queste è stata una dura lotta al rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici per l'industria, che è iniziata da quando il nostro sindacato, l'organizzazione sindacale più presente, la FIOM, ha presentato la propria proposta di rinnovo, la propria piattaforma di rinnovo. in questa piattaforma di rinnovo già avevamo individuato delle molte cose che non ci piacevano affatto, e quindi da subito abbiamo cercato sempre di contrastare la piattaforma, e durante il 2016, dove ci sono state tutta la trattativa nazionale, abbiamo cercato sempre di dire la nostra a riguardo. Ma per questo magari approfondiamo meglio con Matteo, che è delegato insieme a me. Ciao, ciao a tutti. Sì, lo spiegava bene Massimo. Un contratto nazionale iniziato male, finito peggio, perché sostanzialmente ha cancellato quelle che sono state le parole d'ordine e le, tutte le battaglie che la Fiomme in questi anni ha portato avanti. Insomma, ci siamo visti mangiare in un sol boccone con la firma di questo contratto nazionale, ahimè, firmato dalle tre organizzazioni più importanti, ma validato dal voto dei lavoratori, metalmeccanici, e qui appunto quelle parole d'ordine che avevano portato la Fiom un po' nell'immaginario collettivo ad essere qui baluardo, se così lo vogliamo chiamare, a livello sì di sinistra, a livello italiano, insomma, che in passato aveva, era riuscito a riempire le piazze, insomma, no? Anche senza la CGIL, quindi solo il comparto metalmeccanico. Io mi ricordo nel 2010, dopo Pomigliano, ci fu quella grande manifestazione a Roma, quindi non sciopero ma manifestazione, che per la prima volta, io non sono anziano, però di cortei e di piazze l'ho fatto un po', non avevo mai visto insieme quella moltitudine di associazione, aggregazione. Vedere un sindacato confederale come la FIOM sfilare insieme ai sindacati di base, ecco, non mi era mai successo. E invece nel 2010, dopo Pomigliano e dopo sull'onda della battaglia per l'acqua pubblica, no? Era quel periodo lì. E nulla, e con questo contratto nazionale praticamente si cancella quel pezzo di storia lì, perché in un sol colpo la FIOM accetta contratti separati firmati dalla FIM e dalla UIM, gli altri sindacati maggioritari, poi con un semapito, quanti tesserati c'hanno, chi ce li ha, chi ha la maggioranza e non ha la maggioranza, nonostante si siano stati fatti accordi sulla rappresentanza, ancora questo non è chiaro. Però sostanzialmente la FIOM con la firma di questo contratto nazionale rientra nell'alveo della normalità, ecco, della normalità. Quindi i rapporti con i vertici sindacali non sono stati particolarmente idilliaci negli ultimi tempi, ecco. Allora, noi non abbiamo un buon rapporto, non perché ci siano questioni personali con le sigle sindacali in generale, no? Noi siamo una fabbrica abbastanza turbolenta, insomma, una fabbrica un po' di matti, come si viene definiti. La nostra storia arriva da lontano 2007, dove appunto contestammo un accordo fatto da chi ci precedeva nell'organizzazione sindacale, ma anche le strutture sindacali FIM, FIOM e UILM, questo accordo voleva farci lavorare su più turni, compreso la domenica, e quindi insomma noi con un gruppo di lavoratori iniziamo a mettere il naso nell'organizzazione interna della fabbrica, riuscimmo un po' a organizzarci, a contestare quell'accordo, e da lì sono cominciati i mal di pancia, ecco, con le strutture provinciali sindacali. Su questo contratto abbiamo continuato su quella scia lì, ripeto, il dolore è che anche la FIOM a questo giro sia stata partecipe di questa firma, cosa che prima non era. Stata una delusione anche a livello personale, perché io, che non sono mai stato, come dire, un innamorato della sigla sindacale, però sulla scia delle battaglie della FIOM, come dire, mi sentivo un po' orgoglioso di farne parte. Ora mi sento orgoglioso di far parte della classe operaia, ecco, non delle sigle sindacali. Non ricordo bene, ma è stato da voi che si sono presentati insieme i vertici sindacali e l'azienda per presentare con delle slide i contenuti del contratto nazionale? Ma in tempi diversi. Noi abbiamo fatto nel dicembre scorso le assemblee, quelle canoniche, dopo la firma del contratto nazionale, ahimè, perché aveva sentito odore di contestazione la nostra sigla. Noi siamo, quattro diceva prima Massimo, 450 lavoratori tra impiegati e operai, e ben 200 di questi sono tesserati alla FIOM CGIL, no? E nella presentazione, nella parte sindacale, delle tre assemblee, sulla presentazione e la votazione del contratto, la FIOM stranamente non si è presentata, si sono presentate solamente la FIM e la WILM. Poi l'accordo è passato a livello nazionale e successivamente in gennaio l'azienda, per la prima volta, io ho 20 anni lavoro lì dentro, per la prima volta in 20 anni si è presentata con le slide, come dicevi te, in riunioni specifiche di reparto, spiegando cosa cambiava sul contratto nazionale. Quindi questo la dice lunga sulla bontà di quel contratto nazionale, insomma, no? Mai prima d'ora si erano presentati i padroni a spiegarci il contratto nazionale. Una vera e propria fretta di applicarlo. Quindi. Io ho parlato prima di una maggioranza, una stragrande maggioranza, più o meno come è stata, insomma, se ci sono state anche delle differenziazioni all'interno dei reparti oppure. No, diciamo che allora, come dicevo prima, dal momento in cui è stata presentata, è venuto un funzionario della FIOM nazionale a presentare la piattaforma di rinnovo per il contratto nazionale a fine 2015, poi sono iniziate le trattative a livello nazionale, quindi Federmeccanica da una parte e le sigle sindacali dall'altra. Abbiamo seguito con attenzione, estrema attenzione, tutto il 2016, tutta la durata di queste trattative. Ad aprile, mi ricordo in particolare, la trattativa si fermò, ci furono anche degli scioperi, ma scioperi non tanto per rinnovare il contratto secondo quella piattaforma, erano scioperi che andavano a contestare le richieste di Federmeccanica, che ci sembravano veramente limitative in base alle norme del contratto, in base al salario che veniva presentato come rinnovo. E quindi ci sono state anche altre riunioni in fabbrica, me ne ricordo particolarmente una con il funzionario provinciale che è venuto a raccontarci l'andamento delle trattative, però bene o male in tutto il 2016 abbiamo tenuto forte sui principi che ci hanno mossi a iniziare questa contestazione al rinnovo. La cosa è durata tutto il 2016 e è andata a terminare al momento appunto della sigla del contratto e al momento della votazione. Praticamente al momento della votazione, che si è svolta il 19, 20 e 21 dicembre, tutti i lavoratori sapevano già che cosa c'era in questo contratto e quindi per loro è stato facile votare di conseguenza. Sia gli operai che gli impiegati. È stato bocciato il contratto nazionale con quasi al 92%. Ci sentiamo un pezzo dei Redskins, proprio per rimanere in tema, questo gruppo, appunto, il primo gruppo, uno dei primi gruppi Redskins, che si formarono proprio nel periodo dell'opposizione alla Thatcher, quando in Inghilterra, appunto, il governo portava avanti la chiusura dei pozzi minerari e ci fu una grossa risposta da parte dei minatori, da parte della classe, della working class inglese. Quindi ci sentiamo Keep On Keeping On. Questi erano i Redskins, un Keep On, Keeping On. Ritorniamo a noi, alla nostra intervista, alla bocciatura del contratto collettivo nazionale di lavoro. E quindi, e quali erano gli elementi più, diciamo, clamorosamente antioperai, diciamo così? Ma senti, allora, quello che anche a livello, come dire, umano, dava fastidio, perché noi ci si è messo una pezza su questo contratto nazionale, ma purtroppo bisogna difenderlo fabbrica per fabbrica, quindi, come si dice in gergo, ci sarà una balcanizzazione, cioè c'è, cioè, chi riuscirà, chi non riuscirà, chi riuscirà parzialmente, non riuscirà per niente. Quello più pesante a nostro avviso è la carenza della malattia, cioè sì, praticamente i giorni di malattia nell'anno che vengono retribuiti al 100%, quindi che ci sa il pagamento di tutti i giorni della malattia, sono solamente 3 eventi nell'anno. Cioè, dopo il terzo evento nell'anno di malattia breve, da 1 a 5 giorni, praticamente dopo il terzo evento e il quarto evento comincia la decurtazione economica, quindi quella parte aziendale, no? La malattia viene pagata una parte dall'azienda e una parte dall'INPS, no? Quella parte aziendale che viene erogata appunto dall'azienda, dopo il terzo evento nell'anno comincia a scendere fino ad arrivare al 50%, e quindi, come dire, no? Ci allungano l'età pensionabile, ci fanno lavorare fino a 70 anni, quando ci si ammala, ovviamente diventando anziani ci si ammala più spesso e non si viene retribuiti, e quindi, come dire, questa forse è la parte più pesante. Le altre parti, c'era praticamente una sostanziale deroga a quella che è la legge 104 per l'assistenza dei familiari invalidi, che la legge stessa non dà regolamentazioni stringenti, praticamente sul contratto veniva scritto che viene scritto che praticamente il lavoratore che deve, che usufruisce di questa legge 104, quindi che ha qualche familiare con delle difficoltà, con degli handicap, deve programmare i giorni di 104, che sono 3 giorni al mese, il 20 del mese prima. Cioè io, se devo usufruire della 104 a maggio, io entro il 20 d'aprile devo dire all'azienda quando prendo giorni, 3 giorni a maggio. Un'altra parte importante che va a ledere proprio il diritto, cioè della contrattazione in fabbrica, no? tra i lavoratori e i padroni, era quella sull'orario di lavoro, perché fino ad oggi l'orario di lavoro, per essere modificato, doveva essere contrattato con le rappresentanze interne, soprattutto la parte legata alla plurisettimanalità. La plurisettimanalità è quella modalità lavorativa che ti fa lavorare in orario normale, quindi non in straordinario, durante il sabato e la domenica, e poi ti fa riposare nelle settimane successive. Cioè te lavori 6 giorni continuativi e quel giorno che lavori in più, quindi il 6° giorno, lo recuperi successivamente. Quella roba lì doveva essere contrattata fino a gennaio con le rappresentanze interne. Ora è totalmente in mano all'azienda, che può decidere di applicarla o meno, e alle organizzazioni sindacali è rimasto solo di contrattare il periodo di riposo. Quindi insomma delle briciole che non riescano a bloccare l'organizzazione, a mettere bocca nell'organizzazione. Altra parte importante, quindi si colpisce la malattia, si colpisce l'orario di lavoro, ma si colpisce anche il salario, perché nel nuovo contratto praticamente viene scritto che i premi produzioni che eventualmente vengono contrattati, soprattutto nelle aziende un pochino più grandi, saranno totalmente variabili. Cioè totalmente variabili cosa vuol dire? Se l'azienda in un anno, soprattutto in questo periodo qui di crisi, eccetera, eccetera, non fattura quanto dovrebbe fatturare, o comunque magari fattura ma non più di tanto, se i parametri del premio di risultato, come è successo quest'anno anche in GKN, non sono quelli previsti a inizio anno, quindi al di là che siano positivi o negativi, ma quelli previsti dall'azienda a inizio anno, non sono stati raggiunti gli obiettivi, anche se fossero positivi, il premio di produzione dei lavoratori sarebbe 0. Va bene? Prima invece esisteva una formulazione che arrivava appunto dal contratto nazionale, che diceva, sono sottigliezze, però nel sindacalese sono parole che sono vere, insomma. Sono sottigliezze, magari le possono sembrare a chi non lavora in fabbrica, mentre invece per chi ci lavora sa benissimo che su queste sottigliezze se c'è un rapporto importante, insomma, tra la proprietà, i padroni e i lavoratori. Esatto, infatti fino a oggi c'era scritto sulla parte del contratto che riguardava il premio che potranno essere anche variabili, capito? Quindi quel potranno serviva nella contrattazione interna a dire, bene, se te raggiungi i tuoi obiettivi mi dai i soldi, la parte variabile, però io intanto mi stabilizzo una quota fissa che comunque vadano gli obiettivi dell'azienda, e quella quota fissa continua a percepirla. E in casa nostra, in GKN, quella quota fissa annualmente vale 800 euro. Non sono noccioline, insomma, no? Per chi non arriva alla terza settimana del mese. Quindi per tutta questa serie di motivi, o meglio, questi sono i motivi principali per cui è stato in GKN respinto il contratto collettivo nazionale. Le altre fabbriche nella zona, in Firenze, sono state contestazioni, ci sono state contrasti a questo contratto oppure no? Lì probabilmente il discorso bisogna un po' più approfondirlo, e questo insomma mi piace anche spiegarlo, insomma, anche a me, a Massimo, insomma, è il nostro punto di vista, il nostro modo di vivere la fabbrica, di vivere l'organizzazione, di vivere l'organizzazione interna e il sindacato esterno. Purtroppo, come dire, in Italia, ma questo lo si vede sia nel sindacato ma anche purtroppo nella politica, sia i giovani ma anche quelli meno giovani, ormai si vive, come dire, no, di ora, nella politica magari un senso anche di sdegno ormai, che dopo tutte le cose si vedono. Il sindacato si vive il concetto della delega sindacale, cioè io mi iscrivo al sindacato, non a caso l'iscrizione proprio fisica al sindacato si chiama delega, si chiama proprio delega quella che compile quando ti iscrivi al sindacato, e non è a caso, perché praticamente te deleghi, cioè il lavoratore che si approccia all'organizzazione sindacale, perché in fabbrica, nonostante quello che viene detto, no, è che il sindacato va superato, tutto il resto, in fabbrica l'organizzazione, il sindacato è l'unità dei lavoratori e quindi è l'unico strumento che abbiamo per provare a contrastare quello che è la nostra controparte, quindi il padrone. E quindi viene vissuto purtroppo dalla stragrande maggioranza dei lavoratori il sindacato come un concetto di delega, cioè il funzionario che deve rappresentare le istanze e le volontà dei lavoratori. In che modo? Spesso e volentieri calando dall'alto le decisioni, e quindi c'è una struttura sindacale, che sia la CGIL o che siano altre sigle sindacali, che comunque il lavoratore demanda il proprio futuro, delega il proprio futuro, cioè le proprie volontà. Non c'è di fondo un ragionamento, una presa di coscienza, perché quella servirebbe, la presa di coscienza di classe, e noi siamo lavoratori, siamo la classe operaia, di fronte a noi ci sta la nostra controparte, lei padrone, e il classico scontro capitale lavoro. Noi si cerca, appunto, da quel lontano 2007 che raccontavo prima, di prendere in mano il nostro futuro, la nostra vita lavorativa in fabbrica, provare a capire, provare a leggere, a studiare quelli che sono contratti, le leggi e tutti gli accordi che ci sono stati. Noi siamo Fiat, quindi noi ci siamo un'accordistica che arriva anche dagli anni 70. Abbiamo ripreso in mano tutte queste cose e proviamo da lavoratori, e quindi non da sindacalisti, da lavoratori, a interpretare la nostra vita in fabbrica. E a riprendere in mano, diciamo, la nostra vita e la nostra vita in fabbrica, qualche risultato lo produce, tant'è che, e questo lo affronteremo dopo, tant'è che a livello aziendale, insomma, il contratto viene applicato, comunque ci sono delle norme che sono migliori di quelle che sono nel contratto collettivo nazionale del lavoro.